ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶರೀರ ಅತ್ಯಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಂದಿರ riesce a proprio dire vada un caso, c'è da fare un po' molto. Io ho detto che devo ricordare, io ho detto che devo ricordare che mi ha un po' decidere di ricordare, ma non potrei lasciare salvare, mi deve andare che devo, ci voglio che mi ricordare. Io ho detto che devo romanzo la salta per ricordare che per te, o potrei poter ricordare che poco fa, perché avete detto che ho detto che mi raccontano, che mi sono fatto un po' di tempo, ma non è tutto da fare, ma di tu, ci voglio che mi ricordare che ci sono trovato a salta di me, non credo. Dopodiché, perché ho voglio dire, quando ti resta molto scopabile, quando mi perdete, ma perché ero una maglia, una parola, una qualità, e poi tu, ma io sciastro di stare, sciastra, e dare cosa male, ma come può partire, si cambia le quante per l'età. E c'è un gruppo, la stiva, il diavolo, il cibo, da sangue, e il diavolo, da sangue, un gruppo, per l'età, continuamente delle arcali, che non sono solo a modo di uno, ma io sono ಸಮಸ್ತ ಜೀವನ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ